Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, 22:10 minuti primi, buonasera a tutti, di nuovo in diretta con Maurizio e Gilles per questa puntata live questa volta, Maurizio. Sì, esattamente, una cosa che non avevo mai visto in 15 anni che facciamo, no, 15 anni non sono un po' troppi, 10 anni che facciamo live, il nostro ben amato tastierista ha attaccato lo spartito sul muro, è una cosa bellissima, è la prima volta che lo vedo, è mai capitato, una cosa molto bella, siamo proprio live al 100%, sono dentro proprio alla Fossa dei Leoni, buonasera agli Eku! Buonasera a tutti. Buonasera. Avete fatto un buon viaggio, sì. Ottimo sì. Viaggio, era una bella giornata, una giornata di sole, finalmente dopo 3 mesi o quasi di pioggia, il sole, la musica porta il sole. Assolutamente. Quasi sempre. Noi siamo portatori sani di sole. No, portatrici va bene. Va bene ugualmente, ok. Va bene anche quello. Dai. Diciamo che gli EQ arrivano da Forlì, se non sbaglio, no ragazzi? Sì, e provincia, sì. Forlì e provincia, sono Gabriele Graziani, che è la voce. Presente, sì. Vanni Crociani, al pianoforte, sassofono. Poi abbiamo Alessandro Fabbri. Eccomi. Percussioni e basso. E Michele Barbagli. Sono qui. Chitarra e basso. Maurizio. Facciamo la storia, è importante sapere, capire come è nato il progetto EQ. Dopo verremo a parlare del disco nuovo, ma il progetto EQ, come si è sviluppato, come è nato? Chi parla, il tastierista? Parla il tastierista. Posso dirlo io? Vai tu, Vanni, vai tu. Nasce come succede tante volte, trovandoci come ragazzi dello stesso paese, noi veniamo da un paesino in realtà, non siamo di Forlì, ma provincia, dai. Provincia di Forlì. Per ritrovo tra amici, quindi quasi per gioco. Poi negli anni siamo andati avanti, abbiamo iniziato a fare i primi concerti, a scrivere i primi brani e quindi siamo ancora qua. Dal 98 che suoniamo insieme. Quindi del 98. In realtà è 96, però va bene, 98. No, ecco. È giusto per puntualizzare un attimo. Okay. È passato tanto tempo, quindi. Dimmi. Per puntualizzare, credimi, il frontman, no, ragione, il frontman deve puntualizzare, giusto? giusto? Sì, anche perché questa domanda la doveva rispondere lui, a questa domanda ci teneva, insomma. Ci tengo tantissimo, però mi ha anticipato. C'è una scaletta interna nostra che è rigidissima, alla prima doveva rispondere lui. Il frontman e poi tutto il resto. Cari ascoltatori, cioè io sono in una particolare situazione stasera, è la prima volta in tanti anni. Sono in piedi, posizione strana. Sono in piedi, non sono seduto, e mi devo girare come una ruota per vedere gli altri componenti della band. Che proprio mi sono proprio come un presentatore vero. Sì, esattamente. Non ho il frac da presentatore, però sono in camicia, fa caldo, giustamente. Fa caldo. Bene, quindi dal 96 siete arrivati per diverse stasi musicali. Perché tu guardi qua. Guardo quello. Dimmi. Ah, ok. Non è uno spartito. Ok, infatti. È uno spartito, è una cosa bella. Ho cercato di attaccarlo davanti. Ma l'hai attaccato bene, sì. È una bella cosa, secondo me, è una cosa. Vuol dire che siamo proprio nella Fossa dei Leoni, come dico io. Ma veramente nella Fossa dei Leoni. Amplificatori, tastiere, il frontman di dietro che sta provando anche lui, la batteria che poi mi farà una grande testa la batteria, vero? Sì, dietro anch'io. Benissimo. In ogni caso, quindi lentamente ma progressivamente siamo arrivati a questo nuovo album che rappresenta una svolta musicale rispetto al disco di 4 anni fa, che erano 4 anni sono passati dal penultimo, non è così? Chi mi risponde? Sempre lui, musicalmente. Lui musicalmente è sempre lui. Come abbiamo ovviamente fatto il nostro percorso, quindi noi abbiamo registrato ad oggi 3 dischi e abbiamo cercato di evolversi a nostro modo, secondo il nostro punto di vista, in ogni disco che abbiamo fatto. Quindi non è stato questo, già anche il secondo disco era molto diverso dal primo. Già col secondo disco ci siamo imbattuti. Si chiamava il secondo disco? Liquido. 2008. No, sì, il numero 4, no, non è Liquido non è il numero 4, il secondo disco. Liquido è il secondo del 2008, già lì abbiamo avuto il nostro, è stato il primo esperimento di concept album, siamo in continua evoluzione, speriamo di farne un quarto disco ancora diverso dal terzo. E dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori. Fare un concept album nel 2013 non è una cosa semplice. I concept album si usavano nel prog, negli anni 70. Nel 2013 è una essere coraggiosi, francamente, caro nostro tastierista. Cosa siamo dici? Per fare le cose che ci piacciono a Vani, noi. Diciamo Vani, sì, va bene. Ma meglio Vani. eravamo un po' stanchi della canzonetta, adesso lasciami... Sì. Canzonetta tra virgolette, dai. Esatto, della canzonetta di 3 minuti con la sua struttura studiata, con il ritornello che deve arrivare dopo 20 secondi, con le 2 strofe, lo spazio, tutte queste cose qui che, in cui noi abbiamo sbattuto la testa. Ci siamo stancati, abbiamo deciso di fare delle cose che ci piacciono prima di tutto a noi, sperando poi di trovare da parte degli ascoltatori un riscontro. E quindi siamo entrati nel concept album cercando di, invece che vedere come la canzone di 3 minuti e mezzo, vedere invece un lavoro visto dall'alto in un organico più completo. Dunque, una storia che si divide in 2 parti, facciata A e facciata B. Una volta si usava, non è proprio così, ma potrebbe essere anche così. Facciata A, c'è un barista. Come mai c'è un barista? Ecco, mi giro entra... verso il cantante, sì. Che lui è autore di tutti i testi, dobbiamo dirlo, Il bassista, tutti e due, chitarra, dici. Caro frontman, ma intanto diciamo che dal corridoio, direttamente dal corridoio, è la prima volta in assoluto. La sintesi, appunto, sta proprio nel titolo dell'album, che è Un altro me. Raccoglie appunto la faccia di una, 2 facce della stessa medaglia, ovvero la prima parte dove il nostro protagonista appunto si ritrova barista, e nella seconda parte invece è un pittore. Quindi 2 modi, 2 situazioni, 2 mestieri completamente diversi, ma che in qualche modo racchiudono un unico personaggio. Questo personaggio appunto ha 2 sfaccettature che in qualche modo si intrecciano, si incontrano. Il barista, se vogliamo, in qualche modo fa gli stessi movimenti del pittore e viceversa. Quindi abbiamo studiato il modo, il tempo, il lavoro di pittori e il lavoro dei baristi. Tutte e due fanno più o meno, sono in qualche modo, anche perché il nostro pittore nella seconda parte è un ritrattista. Quindi guarda le persone quasi come il barista guarda i clienti, ovvero con un bancone che divide, e quindi c'è proprio una sorta di distanza tra lui e il resto del mondo. Il resto del mondo sono le persone che vengono dipinte, sono i clienti che entrano, sono i clienti che si raccontano anche velocemente, proprio perché, come abbiamo detto prima, il nostro quotidiano ha bisogno della fretta. E proprio perché noi abbiamo bisogno invece di dilatare il tempo, raccontiamo la fretta. Tra l'altro, io sto leggendo un po' che sarà il primo brano, Il solito, e sembra proprio non solo una canzone, ma sembra proprio un racconto che ha un suo percorso. Questo è molto bello. Lo possiamo definire un album filosofico? Da quello che riesco a intuire, assolutamente no. No, adesso non siamo così seri. In realtà, no, cioè nel senso che. Aspetta, che mi sposto perché ti. Ok. Andiamo troppo in alto, ma è proprio una questione di raccontare, un'esigenza di raccontare una, come ha detto Vanni prima, non tanto un'idea di struttura di canzone, ma una. Raccontare una storia che è una specie di romanzo che ha tanti capitoli. Questi capitoli per noi sono le canzoni, quindi le canzoni rappresentano quello che siamo, il modo e il tempo, sostanzialmente, sì. Il tempo che passa. Quindi in realtà tutte le persone in qualche modo si fa sempre, no? Un po' di filosofia, sempre, certo. Non c'è un ruolo e non c'è un mestiere, appunto, ma è proprio raccontare e raccontarsi, anche dentro un'idea di leggerezza si arriva alla profondità più vera, certo. E questo credo che è in comune, è bello anche cambiare, entrare dentro l'idea del mestiere del barista che poi alla fine diventa pittore, e alla fine è la stessa cosa. Certo. Questo, Maurizio, è un po' anche quello che si parlava anche con Ruggeri, no? La settimana scorsa, in cui si diceva che cioè non è importante l'apparire, ma è importante aver qualcosa da dire, che questo è importante anche nella musica. Si rimane, la gente si ricorda e si rimane nel tempo. Sì, assolutamente, si chiama anche giustamente anche un racconto, anche onestà in qualche modo intellettuale, e bisogna anche fermarsi, lasciare spazio alle idee e quindi giocare su questo. Sentiamo il pezzo, cosa dici? Il primo, sì, il solito. Uno ha scritto: ci sono delle sperimentazioni alla John Di Leo. Cosa c'entrano i Quinto Rigo con voi? Oh. Forse perché sono romagnoli? Beh, può darsi perché sono romagnoli. Io bravo non... giornalista, allora. È un po', secondo me non ha molto attinenza. John Di Leo è grandissimo, è un musicista straordinario. Sì. Quando era con il Quinto Rigo faceva giustamente delle sperimentazioni. Però non fa parte del vostro DNA, secondo me. Non credo, adesso a me non viene in mente, ma magari non sta a noi che l'abbiamo scritto dire. Non so, magari ha ascoltato qualcosa che può ricordare, ma... Cioè, questo giornalista che ho critico presunto ha fatto una sua comparazione, certo. un suo modo di prendere il pezzo, di esaminare il pezzo, ha parlato di John Di Leo. Adesso quando sentiamo il pezzo facciamo le nostre considerazioni, vediamo se, almeno le mie considerazioni, se si avvicinano alle vostre. Ok? Vai. Anticipo la sveglia e mi sveglio. Mi guardo la faccia al contrario, abitudine, specchio, chissà chi c'è di là, mi vesto di fretta cappotto, son svegli vicini di sotto, parole, pareti, segreti. Li sento che sembrano ieri. Nell'ombra che passano, fumano freddo, salutano. Fuori la notte non c'è, sembra memoria, non è. Si specchia, cielo che sul pozzo si fissa. La presenza immobile di nuvole che succhiano, labbra che non parlano, casomai si bruciano, quasi tutte soffiano sul caffè macchiato del desiderato, bocche da peccato. Pozzo che fissa il cielo. Cielo che si spegne. specchia sul vero, vero, sul cielo si specchia, cielo che sul pozzo si fissa. Blue Time. Blue Time. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 22-26 minuti primi a Blue Radio Veneto, con noi in diretta, in live in studio, gli EQ, con, per presentare il loro ultimo CD, Un altro me. Allora, il solito, un pezzo che abbiamo scelto per apertura da disco, ha due o tre chiavi di lettura. Adesso mi rivolgo al batterista, che mi ha detto una cosa bella mentre il pezzo non andava. Queste stop and go, queste fermate di partenza. Tu hai detto una cosa splendida, adesso me la ripeti. Ma teniamola per noi, dai. No, no, assolutamente, è molto interessante. No, che è un po' un pezzo che racconta un po' l'album, nel senso che può essere un mini concept fatto a canzone. Ecco, un mini concept fatto a canzone. Vanni, prima di partire, diceva quel discorso della canzone che non esiste più, quel rompere lo schema della canzone. Effettivamente questo è rompere lo schema della canzone. Questa non è più una canzone, anche se ha 3 minuti o 3 minuti 50, adesso non ricordo il tempo. Però non è più uno schema di una canzone, se è un concept. Anche una specie anche di suite, una mini suite di 4 minuti. Suite mi piace molto. Bene. Infatti è quello che abbiamo sempre pensato noi. Partiamo da questo presupposto. Noi, quando si scrive qualsiasi cosa, bisogna darsi dei paletti. I paletti che ci siamo dati noi non è quello della struttura che crediamo, che mettiamo subito a prescindere in secondo piano. Noi mettiamo in musica un testo che scriviamo prima. Mm. Che scrive Gabri. E pensiamo alla musica come a un vestito messo apposta per quel testo lì. Noi pensiamo alla musica come colonna sonora del testo, quindi come pensiamo al fatto che la musica riesce ad amplificare o a sottolineare un'azione, uno stato d'animo, descrizione di un luogo, può fare tutte queste cose. Quindi se l'esigenza primaria è quella di raccontare, noi, se il racconto cambia, cambiamo la musica. Ecco, noi andiamo, ma prendiamo questo come filone logico per scrivere. Quindi il primo brano, ovviamente ci sono tre situazioni, partendo dal testo proprio della canzone, differenti, e noi senza problemi abbiamo fatto tre quadri musicali diversi. E questa voce filtrata, Gabri, perché questa voce è filtrata? Ha una caratteristica anche quella, è una rottura dello schema nel pezzo di 4 minuti. Sì, come diceva Vanni, sono tre stati d'animo appunto diversi. Quindi all'inizio c'è questa specie di notte o risveglio, poi c'è l'assoluta c'è la voglia dell'azione, perché il bar è aperto, molto semplicemente, è un atto, e quindi dentro la velocità e la routine e l'abitudine del barista ci ritroviamo dentro un effetto sonoro che ci... Di confusione presunta, insomma. Di confusione, sì, effettiva. Ma di confusione anche perduta agli avventori, alla gente che passa. Esatto. Terzo momento invece del disco c'è, diciamo che è una specie di apertura, nuvoletta sul pensiero. Quindi mentre le prime due sono azioni, il risveglio e poi il movimento, la terza fase invece è pensiero. E quindi sono tre momenti diversi, tre quadri diversi e tre strutture anche diverse. Allora Vanni mi ha detto, mentre il pezzo andava, che il piano, gli arrangiamenti del piano li ha scritti lui. L'arrangiamento totale del pezzo è stato fatto con un lavoro d'assieme, ed è importante il lavoro d'assieme per fare un concept album. È fondamentale se poi si ha un gruppo. Esattamente. Noi abbiamo registrato questo disco chiudendoci per 3 settimane in una casa di campagna, senza montagna. Sì, di montagna, senza tornare mai a casa. Abbiamo portato su tutti gli strumenti, il pianoforte, e ci siamo chiusi lassù, dove nessuno ci ha disturbato, proprio per ritrovare l'insieme, che al di là della musica il gruppo funziona se c'è una buona intesa. E quindi ovviamente il lavoro dell'arrangiamento e poi della registrazione, della ripresa dei suoni, che sono tutti fattori che vanno a incidere direttamente. Uno può scrivere una bella musica, un bel testo, ma se poi i suoni sono fatti male viene brutto. Quindi su tutti questi fattori noi abbiamo lavorato insieme. E qui con questo discorso qua si ho fatto qualcosa che non dovevo fare, ma fa parte della forza dei leoni anche questa. Bene. Non sono abituato a stare al centro. No, dicevo, scusate, adesso mi levo. Ma è tutto dal vivo, anche questo è tutto dal vivo. No, Vani diceva una cosa molto bella: vi siete chiusi dentro in questa casa di montagna. Come si usava una volta? Una volta si usavano così a fare certi dischi importanti. Si stava dentro, non so, 15 giorni, 20 giorni, un mese, 2 mesi, e non si usciva mai, si stava sempre là. E certi album fondamentali sono stati fatti così. Certo. Quindi un ritorno agli origini, ma soprattutto una coesione di gruppo. E questo è importante, come tu giustamente hai affermato prima. Sì, sì, è la partenza minima per qualsiasi progetto musicale o non musicale. Prima di tutto c'è tutto il contorno, quello che si va sul palco, indirettamente sul palco ci porti tutto quello che te vivi, esatto. Al di là di quello che fai, certo. Sul palco. Cosa facciamo adesso? Live, vero? Cosa dici? Live, però volevo fare una parentesi, oltre che portarvi i saluti di Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, volevo ringraziare Maurizio, anche il portale padovaoggi.it, che ha dato gran risalto all'appuntamento live di questa sera con gli EQ. Certamente. Quindi grazie a padovaoggi.it. Maurizio, allora live cosa facciamo sentire? Gabri, facciamo sentire Vita da Bar. Vita da Bar. Siamo pronti, ragazzi? Yeah. 1, 2, 3, 4, 1. Analcolico, decorazione, frutta fresca con ananas. Il cliente ha sempre ragione, ma la ragione non sempre sa. Ci vuol pazienza, ci vuol coraggio per sopportare chi sta di là. Ci resto male quando un cliente non prende niente, passa e va. Faccio parlare, ma non ascolto la mia domanda, ciao, come va? Se la risposta è troppo lunga, sospiro, aggiungo, che ci vuoi fare? Faccio passare la mia giornata con 2 pasticche di guarana. Coi guanti bianchi tolgo gli avanzi da questa vita, vita da bar. Poi nel mezzo del pomeriggio non va più niente, non va più il bar. Per il comune causa lavori, hanno staccato l'elettricità. Cortocircuito dimenticato, comunicato un mese fa. Mai capitato nel pomeriggio, disoccupato dentro il mio bar. Il campo è basso, non riesco a farlo, non c'è la luce, non c'è pietà. Se non va niente, non serve a niente, così i clienti cambiano bar. Poi ce n'è uno che vuole entrare, dico di andare fuori di qua. Sarà cinesca che si decide e finalmente si abbasserà. E così penso che l'aria è densa, è quasi bianca da respirare. Di originale non faccio niente, seguo la fila, mi siedo qua. Mi guardo intorno, ambiente giusto, sono cliente di un altro bar. Perché la vita è un bicchiere vuoto per affogare, immagina. per affogare in macchina. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Benissimo. Ci siamo dimenticati di una cosa, caro batterista, a proposito del brano precedente. Ti ricordi che avevamo parlato del discorso del premio Bindi? Eccomi, sì, infatti, era passato col pezzo. Rimetto le cuffie, ecco, sì, approfittiamo. Il solito fa parte del siamo in finale al premio Bindi 2013, appunto, con il brano che abbiamo suonato dal disco poco fa, ovvero Il Solito. Esattamente, quindi è una cosa molto bella, molto importante. No, ci teniamo tanto perché uno è legata anche a una terra a cui siamo particolarmente cari, che è Genova, dove ci abbiamo registrato quasi tutti i nostri dischi, anzi tutti, dai primi singoli. E lavoriamo con una persona molto cara di Genova, che è Marco Canepa, che è un nostro, diciamo, collaboratore, amico, fin da sempre. Esattamente. E quindi andremo il 6 luglio vicino a Genova, non ricordo esattamente il paesino di origine di Bindi. Santa Maria Ligure, esatto. Per questa manifestazione ci saremo. Benissimo, una cosa molto importante, il premio Bindi. Tra l'altro, se non sbaglio, tra oltre 100 partecipanti. Esatto. Esattamente, quindi non è poco. 180. 180. Ecco, 181 in realtà. 181, ancora meglio. Sì, è arrivato uno alla fine. Parliamo di questo pezzo, Vita da Bar. Musicalmente io l'ho conosciuto, perché ero proprio a un centimetro dal batterista. Faceva un po' di vento, chiaramente, ma era bello significativo. E lo suonavi come un automa, con un progressivo... un suono progressivo, sempre più forte, perché deve essere così? È una domanda o un'affermazione? No, è un'affermazione, secondo me. Sì, è lo spirito del testo, anche quello porta a questo modo della batteria che preme, che pulsa, che distrugge nel senso positivo del termine musicalmente. Bene, è arrivato a destinazione. Allora. Il senso era quello, sì. Il senso era quello, no? Ah, sì. Esattamente. Benissimo, un pezzo molto interessante, ma tutto l'album interessante. Parlavamo prima di cominciare la nostra cavalcata, che durerà fino alle 24, cari ascoltatori, quindi non spegnete l'apparecchio, dovete stare sempre acceso fino alle 24 ed oltre, chiaramente, con tutti i programmi nostri. Parlavamo di un discorso di raffinatezza nell'interpretazione dei suoni. È un disco raffinato, ma non è un raffinato così, è un raffinato perché l'idea doveva essere così, di raffinare i suoni, di costruirli in una certa maniera per rapportare al testo, che era importante. Chi mi risponde? Il nostro bassista. Che ora ho la chitarra, quindi sono chitarrista. Allora, adesso sei chitarrista. Però il chitarrista e il bassista mi piace. Poi c'è una Stratocast pronta qua davanti, una cosa meravigliosa. Sì, il discorso è che la parte musicale, come diceva Vanni, deve essere un po' è un vestito che noi cuciamo sulle parole. Ma è bel vestito, secondo me. Siccome insomma cuciamo un vestito a una bella figura, penso, almeno credo, al mio parere è questo, anche il vestito deve seguire questo stile, questo... È difficile perché comunque, essendoci nei testi molte parole, essendoci molte parti descrittive, molte parti importanti, quindi da seguire anche per l'ascoltatore, la musica deve cercare di essere complementare, di essere sì ricca, perché comunque è un po' nella nostra natura quello di scrivere in una certa maniera, ma al tempo stesso non andare oltre all'attenzione che si deve dedicare Gabri testo. Quando scriveva un testo ve lo faceva sentire e poi la musica veniva costruita sul testo, oppure è una cosa, non so, come veniva fatta materialmente il discorso, come veniva era il produttore che vi dava un input? No. Per nostra fortuna abbiamo avuto carta bianca da tutti, quindi è proprio il lavoro è nato nostro, è finito nostro con l'aiuto di Marco Canepa, che è stato citato poco fa. Mettiamo semplicemente in musica un testo già fatto, Gabri l'aveva già scritto il testo anche di Vita da Bar. Si mette in musica il testo si crea la melodia, si creano gli accordi, tutto quello che è poi l'arrangiamento, ovviamente, come diceva prima, è un lavoro di lavoro lungo. Ma ovviamente gli accordi, sì. da un accordo di piano o da un accordo di chitarra, come nasce praticamente? Lui, Gabi, scrive il testo e poi come viene l'input, da dove parte l'input musicale? Il testo chiaramente Gabi l'ha spiegato. Io scrivo col piano, magari questa cosa un po' si può anche sentire. Scrivo al pianoforte semplicemente basandomi sul significato del testo, sulla descrizione di quello che avviene nel testo e mettendoci la musica che secondo me più appropriata a quella situazione di lì. A me viene in mente, con quello che hai detto Vanni, mi viene in mente una volta, come ai primi del Novecento, quando c'erano i musicisti e c'era un film che c'era lo schermo, il film era muto. Perfetto, è quello proprio che, quello. Esatto, è proprio quello che abbiamo cercato di fare, è proprio intendere la musica e l'arrangiamento e la melodia come colonna sonora. Il concept album può essere visto anche come un film o come un libro, quindi a dire pensare alla musica come colonna sonora, secondo me è quello che abbiamo cercato di fare. Poi magari io l'ho me... pensato così. Sì, sì, io sì. Io l'ho pensato così, come colonna sonora, è un'ottima colonna sonora. Colonna sonora, appunto, la colonna sonora, si dice, no, che la colonna sonora fatta bene è quella che non senti. È vero. È vero. E la colonna sonora esiste proprio per sottolineare quell'azione che stai vedendo al cinema, o per amplificare uno stato d'animo, come poi dopo l'ho già detto, quindi sono anche ripetitivo, però è quello che abbiamo cercato di intendere noi, cioè utilizzare la musica sotto quel punto di vista lì. E questo pittore e il barista sono due artisti che hanno contatto con il pubblico, con la gente, e quello è importante, fondamentale, anche quello fa parte, certo, di un disegno che Gabri ha scritto con il testo e voi avete musicato. Bene, 22:42, abbiamo ancora un'oretta abbondante, caro Gile. Bello, certo. Bello. È bello soprattutto essere qua nella Fossa dei Leoni, ripeto, vicino a un centimetro dal batterista. Soprattutto poi vedremo, sentiremo poi gli orecchi come andranno. Gabriele, a me piace tantissimo vedere un po' i testi, cosa si dice. Un altro me a questo punto sarebbe barista che parla quasi con se stesso. Bello, sì, esatto. Si ritrova, diciamo che l'azione va avanti, abbiamo saltato una canzone che è l'inventario, però siamo in un punto cruciale dell'album, ovvero il passaggio di consegne tra il barista e il pittore. In questo caso c'è la consapevolezza che prima mancava, e quindi si ritrova appunto dentro un altro me. Per la canzone che abbiamo sentito prima, in maniera molto semplice, si rompe la macchinetta del caffè, quindi un problema, un guasto, un cortocircuito esterno ed interno anche del barista stesso. Quindi lui non trova di meglio, si trova disoccupato dentro il suo bar, chiude il bar e si ritrova cliente, ovvero va in un altro bar. Molto semplicemente si ritrova cliente dall'altra parte, guarda il barista e ritrova semplicemente se stesso. E questo è quello che andremo a fare con un altro me. Quindi l'invito che faccio a chi ci sta ascoltando di sicuramente ascoltare quello che è anche la parte musicale, ma soprattutto di fare molta attenzione al testo. Ragazzi, io vi do un piccolo stacchetto, un jingle, una decina di secondi e poi potete partire. cielo pozzo, posto fisso dentro un bar che non conosco, mi rilasso e mi capisco nel mio ruolo da commosso. Sorride, non parla ma serve veloce, sembra lontano, felice, chissà dove va quando piove. Non beve caffè ma lo immagina, non gioca a carte, partecipa. Non guarda TV, solo cinema. Non solo non credo che esista, ma sembra di spalle l'artista. Pensando, non trovo parole pensando, rispondo dentro di me, esco di fretta nell'aria, luce che taglia la vista, barista soggetto perfetto, di spalle sembrava me. A cosa stai pensando? Rispondo sempre a niente. A niente di importante, non è importante niente. Accade sempre poco, anzi non accade niente. Rispondo sempre dopo, il dopo non mi serve. A cosa stai pensando? Rispondo sempre a niente. A niente di importante, non è importante. Sempre poco anzi, non accade niente. Rispondo sempre dopo, il dopo non mi serve. A cosa stai pensando? Rispondo sempre Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 22:49 minuti a Blu Radio Veneto. Maurizio, che dici di questa partenza lenta e poi questo crescendo legato al testo? Dunque, questo è un pezzo, innanzitutto è la title track, così si dice, no? Qualcuno giustamente ha scritto il pezzo più importante del disco, anche musicalmente il pezzo più importante del disco, un inizio classicheggiante, impressionista, caro Vanni, molto impressionista, però poi una sperimentazione continua, una schizofrenia musicale alla fine che dà la cioè per il testo è un testo forte, un altro me deve entrare, deve inserirsi nel concetto, e musicalmente un pezzo molto molto bello, assolutamente forte, importante, permeato di di uno sperimentalismo, soprattutto la parte finale. La parte iniziale no, ma anche possiamo sperimentare anche facendo musica impressionista, secondo me. Assolutamente sì. Io parto da... mi piace proprio come musica quello stile lì, no? Adesso, mm-hmm, ovviamente non mi voglio paragonare a nessuno di grande, quindi non facciamo nomi. Non facciamo però, nomi, facciamo. La musica intesa mettendo da parte le regole, l'armonia, tutte quelle cose lì, semplicemente ascoltando, no? Si creano dei... come dipingere un quadro, quindi senza proprio... ti fai trasportare dalla sonorità, e la sonorità di questo tipo, secondo me, suggerisce delle immagini più che a cose... È un pezzo assolutamente teatrale, poi parleremo del discorso teatrale. Il termine, molto termine esatto, sì. Quello però, che dicevo prima riguardo leggendo i vostri testi. Però una cosa... il senso della teatrale... Sì, sì, vai, no, vai pure. Ma una cosa mi è venuta in mente, non so se siete d'accordo. Il finale mi ricordava un pezzo di King Crimson. Il primo album di King Crimson. La schizofrenia legata alle invenzioni di Robert Fripp. Secondo me sì, la parte finale sì, è così. Mi fa molto piacere, io purtroppo non ho mai ascoltato. Non hai sentito King Crimson? No. Però il primo album di King Crimson, quello famosissimo. Quello con la facciona. La facciona. Sì, sì, sì. Esattamente. Dimmi. Invece io lo conosco e ne sono fiero. Ma non so se sei d'accordo. Secondo me la parte finale è così. È così. L'input che dà Gabri nel testo, poi lentamente il testo viene sopraffatto dalla musica. Il finale, un fenomeno proprio assolutamente sperimentale. Con la batteria, cosa ho fatto? Ho buttato giù il microfono. No, la batteria per tempo si è scassata. Con la batteria che proprio dà quel tono di continuo ripercorre, continua cavalcata, una cavalcata sperimentale, secondo me, sempre secondo me. Sì, è anche, se vuoi, uno dei pochi punti del disco dove c'è magari una chitarra elettrica che, esatto, che c'è spinge, una allora elettrica. Sono sonorità che ricordano un po' quegli anni lì. E per come assolutamente, sì, prove, sì, sì, assolutamente. È positivo, secondo me. Le belle cose non si devono dimenticare, si devono ricordare, ampliandole a dismisura, fatto da voi, chiaramente, si chiamano Echo, non si chiamano King Crimson. Sì, però, no, ma l'influenza fa parte della musica, non esiste musica senza influenza. Ma, certo. Assolutamente. Parliamo del teatro, come giustamente ha citato Gil, perché questo è un pezzo teatrale, ma tutto l'album tutto è teatrale, l'album, fatto tutto, per fare teatro. Com'è, Panni? Gabri, me lo dici te. Ma... È anche difficile rispondere al fatto. Intanto grazie, perché fa tanto complimenti, cioè nel senso che lo sento come una... Quando le sento le devo dire. Certo. L'immagine teatrale, beh, intanto nell'album hanno collaborato il drammaturgo ufficiale di La Tella, che è Federico Bellini, anche nostro amico, e Alessandro Bergonzoni, sì, eccetera, quindi eccetera. Con eccetera eccetera, esatto. E quindi, tra le altre cose, Selene Gandini anche ha girato il video dell'album intero, quindi c'è già una direzione teatrale, già dal punto di vista degli autori, insomma, in qualche modo. E intanto qua c'è il nostro batterista che ha rotto qualsiasi cosa, non è giornata. Il coinvolgimento delle tensioni sonore, esatto. E quindi sì, effettivamente ha il testo, la musicalità è chiaramente, e poi abbiamo visto che il live viene bene in qualche modo in teatro, quello sicuramente, dove si amplifica tutto e dove in qualche modo c'è la parte live è sottolineata, insomma. E viene bene, cari ascoltatori, viene bene anche qua, ripeto, io sono 2 centimetri dal batterista e la forza del batterista, ma non dico che mi abbia spostato, però la sentivo, è una cosa positiva, secondo me. Entra dentro, al di là del che non è rumore, è suono, è ben diverso. Gabriele, parlando sempre un po' di teatro, avevo letto ed ero curioso di sapere un po', un po' per dare ancora vivacità al vostro colore, vivacità, diamole un termine diverso, alla vostra interpretazione live, una creazione in 3D. In 3D, nel concept, anzi nel live abbiamo proprio questa esigenza di raccontare, e quindi attraverso il racconto, attraverso la musica, attraverso il testo, c'è anche un'immagine. Quando noi facciamo, quando noi lo portiamo fuori lo spettacolo dal vivo, c'è anche un'immagine che racconta la storia attraverso, appunto, l'ho già nominata, Selene Gandini. E Selene ha trovato una sua versione, diciamo, cinematografica. Quindi chi viene a sentire i nostri concerti vede sì il concerto, e poi nello sfondo vede Selene Gandini che si muove. Quindi anche giustamente quello che raccontavi, quindi la colonna sonora, il fatto dell'immagine, il fatto del cinema, in qualche modo noi abbiamo cercato di condensare tutto dentro un unico spettacolo, e insomma il tentativo è quello di raccontare la storia e raccontare le suggestioni attraverso tutte le sfumature che possono passare attraverso le immagini, attraverso il suono, attraverso il testo. Non posso dire che siete felliniani, anche se Fellini è uno dei cinque personaggi fondamentali della vostra regione, è sempre stato, lo sarà sempre, però il cinema c'è, cioè, spesso e volentieri, sì, devo spostare, sì, il cinema rientra sempre in questo discorso. È importante colonna sonora, non solo colonna sonora, impressioni, quello voglio dire, impressioni. La sua colonna sonora dà impressioni, secondo me. Anche qui non abbiamo niente da, però possiamo immaginare, quello sì, è fondamentale. Grazie per tutto quello che avete detto fino adesso, e anche il quello che direte poi. Modo. Esatto. Ok, dunque sono le 22:56, quasi le 23. Sai cosa c'è, Gila, alle 23? Loro non lo sanno, sì, però. Sì, manca pochi minuti, la faremo, penso, dopo il prossimo brano. Sì, facciamo brano. Sentire un pezzo dal disco, esattamente. Loro non lo sanno, è una novità. No, per voi, è una novità. Allora, ragazzi, jingle e poi partiamo con il live. Che si allungano sono strade disarmoniche, percorsi da un'identità sensibile e improbabile. Io torno verso casa senza rivedere l'immagine di quel che è stato. Cancello di ogni passo la sua ombra invisibile. Non volto più il mio sguardo, come sempre inaccessibile. Entro nella stanza che mi accoglie bianca e immobile. Chissà cosa è stato di me. Un ornamento senza amore, senza lacrime. Le sedie sono sedie, il resto un vuoto senza margine. Gli oggetti forse pensano, ricordano, partecipano, un giorno poi scompaiono senza chiedersi perché. E poi spostare la porta, ricercare la mia immagine che il tempo addormentato col suo animo insensibile, improbabile, guardare qui dall'alto delle scale la vertigine. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Si chiamava Verso Casa, Maurizio. Praticamente erano solo Gabriele Graziani con la voce e Vanni Crociani al pianoforte. E poi c'era anche Michele, che Michele con un'altra tastiera, dicevo. Ecco, allora non l'avevo. Tu l'hai visto, perché era, così. Era nascosto. Era nascosto. Comunque devo fare veramente dei complimenti a tutti, però ragazzi, Gabriele ha una voce straordinaria, molto bella. Sicuramente poi voi andate ad esaltare la sua voce, logicamente. Lavoriamo per lui. Siete dei gregari, allora. Dei gregari, sì. Musicalmente questo era un pezzo molto minimale, secondo me. Non dico un minimalismo, non dico alla Fripp, perché Fripp non c'è, però poteva essere anche collegato a certe cose, alla lontana. Non dico di Fripp, soprattutto dei Canterbury, quindi dei Caravan. O anche dei Soft Machine, quelli proprio minimali, appena appena accennati. Due tastiere e la voce di Gabri, il testo meraviglioso. Non so, posso buttare così, tra parentesi, può essere una ballad pop, tra virgolette, un pop, non un pop negativo, un pop come abbastanza accattivante, abbastanza riconoscibile. No, ma il pop non è mica assolutamente, non è mica un'offesa, assolutamente. Non è una brutta pop cosa. Viene da popolare, noi non vogliamo essere un pezzo impopolari, pop, assolutamente. Un pop nel senso, in quel senso là, che può accattivante, cioè che può racchiudere determinate tematiche, ma abbastanza immediate musicalmente. Non un giorno ci chiamerà la scena Santa Sofiese, probabilmente. Sì, è molto, cioè, probabile. Ha una sonorità Santa Sofiese, si sente. Ah, Santa Sofiese, perché è il paese dove è il paese veniamo. Vostro. Sì, sì. Perfetto. No, in ogni caso un pezzo molto interessante. E scheletrico fino a un certo punto, però andava bene così, alle 23. E adesso cosa c'è alle 23.03? Il telegiornale. Sì, no. Alle 23.03. Che... non lo sai, tu, Gabri. C'è no. Un problema. Vi, né Michele, né Vanni, né Alessandro lo vi sanno. Vi spediamo su un'isola deserta. Che non c'è. Vi diamo no, solo... che non... sì. Vi diamo la possibilità di portare via 3 CD. 3 CD a testa. Non di più, di tutta bello. La storia della musica. Non dovete assolutamente copiare fra di voi, perché la regola basilare di Rockway da tanti anni è questa. Ogni personaggio, ogni artista sceglie la propria scaletta e l'altro non può scegliere nessun disco della scaletta dell'artista che ha scelto. Chi vuole cominciare? Comincio io. Comincia dal frontman, Gabri, dai. La buona novella di Fabrizio De André. Ci fermiamo un secondo. Perché hai scelto De André? Ma perché hai scelto il più bel disco, secondo me, che lui ha fatto? Il più difficile, il più complesso, il più tremendo, La buona novella. Così ho anticipato Vanni. Bravo, infatti era già... perché... La buona novella è... per me è un capolavoro assoluto. Un capolavoro assoluto e... tratta un tema che mi piace molto, che è quello dei Vangeli Apocrifi. Esattamente. E quindi è una versione di De André e non solo, quindi e soprattutto, per quanto mi riguarda, è il punto di vista femminile. Ah, sì, e di quindi, Maria, la protagonista. Sì, è Maria. Dove nella prima parte c'è una Maria che non conosciamo, ovvero c'è, cioè, una Maria bambina, sì, cioè, Maria bambina, è addirittura, esatto, nominata la madre di Maria, certo, sì. Anna, e è stranissima, no? Perché Maria la intendiamo come madre di tutti, in realtà è stata anche figlia, certo. Questa è una cosa incredibile. Poi c'è il sogno di Maria, quindi tutta la prima parte è una specie di attesa, sì, vero. La seconda parte ritroviamo invece un Gesù cresciuto, certo, cioè sulla via della croce. Quindi abbiamo un primo e un secondo tempo, dove tutta la nostra tradizione si sposta nel mezzo. Quindi è una specie di guardare la storia attraverso due finestre, e noi siamo abituati a guardare la storia attraverso la finestra del mezzo. È vero. E in questo caso qui invece il punto di vista è femminile e soprattutto riguarda un prima e un dopo. Il durante ce lo mettiamo noi. È vero. Disco meraviglioso. Seconda scelta di Gabri. Seconda scelta, io amo particolarmente Giorgio Gaber, quindi c'è, potrei nominarne tanti, ma credo il teatro canzone. Ecco, hai detto Giorgio Gaber, Giorgio Gaber giustamente, perché non so se mi è concesso, ma qualche ispirazione la prendi da Giorgio Gaber? Secondo me. Mi piace moltissimo Gaber perché in qualche modo racconta attraverso la sua attualità il nostro stato, il nostro vivere quotidiano, e quindi è un'attualità che ritorna ed è sempre immediata, e poi prende la vita come in maniera trasversale e quindi ha un taglio ironico sulle cose. Le cose arrivano anche in maniera più forte attraverso questo. Riuscire a partire da Torpedo Blu e arrivare a Poli di Allevamento vuol dire una genialità incredibile. Torpedo Blu era un singolo, ma è arrivato a Poli di Allevamento, che non è assolutamente un singolo. Sì, esatto, esatto. E poi dopo il disco, delle opere più difficili di Poli di Allevamento, come teatro canzone, una delle più complesse. È stato anche il più discusso, insomma. Esattamente il più discusso. Decisamente. Poi dopo io ho avuto la fortuna, l'ho visto 3 volte dal vivo e era incredibile perché arrivava proprio un'energia totale e quindi raccontare le cose attraverso una canzone, attraverso un monologo, attraverso una cosa che in qualche modo, anche se semplice, l'ha inventata. Certo. E quindi La terza scelta? La terza scelta, io ci metto la Sposa Occidentale, che è un album di Lucio Battisti. Che non è l'album della seconda parte? Sì, perché sei paneliano allora. Sì, decisamente. No, Mogol ha scritto delle cose stupende. Esatto, chiaramente. Però Pasquale Pannella è quello che mi ha aperto completamente. Tra le altre cose, ho un ricordo su quell'album lì, che è il primo CD che ho comprato. Prima avevo solo dischi e cassette. E quindi è il primo CD, è simbolico, è stato proprio un passaggio anche a livello proprio di materiale. Uh-huh. E poi il testo, io amo profondamente Pasquale Pannella e quindi da assolutamente quindi con legato. Senza rime, dobbiamo sottolineare, Pasquale Pannella non ha mai scritto una rima, assolutamente. Sì. Ha sempre scritto, cioè scrive dei testi, e bravo Lucio era bravo a musicare testi simili, ben difficili da musicare, difficilissimi, assolutamente difficili, complessi. L'amore non si prova, si indossa direttamente, scriveva queste cose qui. Quindi a proposito del discorso che avevamo fatto prima, quindi è una, sì, sono 3 modi completamente diversi. E purtroppo non ho il quarto, ma quello che amo di più in questo momento è Paolo Conte. Però non riesco a trovare un disco di Paolo Conte. L'opera omnia, possiamo dire, di Paolo Conte. Ok. Tocca a te, Michele. Però volevo fare una parentesi. Vai. Tanto tempo che siamo qui assieme, Maurizio, è la prima volta che uno si porta solo dei CD di musica italiana. Questo è vero, però gli altri non so. Ma pensa a te, record. Okay. Record. Questo è vero. Gabri si è portato solo CD di musica italiana. Michele, tocca a te. Io penso che non ne avrò nessuno di musica italiana. Perfetto. Va bene, è giusto. È veramente difficile sintetizzare. E lo so, l'abbiamo fatto apposta. 3 CD, esatto, appunto so. E quindi ovviamente generalizzerò. Comunque, vabbè. Il doppio bianco dei Beatles, che bello, come mai certo, lo chiedo sempre, però devo chiederlo anche a te. E per no, perché no Sgt. Pepper o Revolver o Rubber Soul, validissimi anche loro, però lì si sente veramente la poliedricità, certo, è vero, dei Beatles. Io penso, senso che io sono posso tutti dire brani... anche la libertà totale. Libertà totale, perché ognuno si è messo a scrivere esattamente quello che gli... Ha scritto anche Ringo. Però. Quello che voleva, esatto, e si sente perfettamente qual è il brano di Paul, quello di Lennon, quello di Harrison e quello di Ringo. A parte perché li hanno cantati loro, però sono molto diversi e lì senti tutto, il quadro completo... Di tutto quello, della quello loro che carriera, potevano sì. dare ancora, che poi non sì. hanno dato per motivi diversi. Lasciamo perdere il discorso delle due donne, tutto quello che sì, era. Probabilmente doveva finire così, doveva finire nel 1970 e basta. Esattamente. Poi voglio fare un salto in avanti. Ci voglio mettere i Rage Against the Machine. Però come mai questa scelta? Perché sono poi abbastanza tosti. Sono fasi della vita, ovviamente. Certo. Non sono cose che magari. Però lo metto tra il top della mia adolescenza. Perché hanno stravolto di nuovo. Cioè, sono riusciti ancora a stravolgere le carte in tavola. Sì. Quelle degli anni 90. Certo. E distinguersi per un genere crossover che solo loro. Cioè, fino a, sono un po' i primi a aver fatto sì. questo tipo di cose. Mettere il rap sulla musica rock. Anche se un vano tentativo c'era stato con Run DMC e sì. Aerosmith. E ci voglio mettere la musica anni 90 perché secondo me ha, ha un grosso peso. Erano tosti loro, però non scherzavano mica. Quando no, assolutamente no. Ho avuto la fortuna di averli visti dal vivo e pigiavano bene. Un'espressione di energia veramente certo. allo stato puro. Insomma. Number three. Torniamo indietro? Ritorno indietro e. Adesso sto pensando a un disco, ma più che a un disco penso a un'etichetta che è la Motown. Come mai la Black? O la Black Music, o la music? È un'altra faccia della musica. Mm. Si chiama Black perché, perché solo i neri potevano suonare cioè, così. Esattamente. Solo i neri potevano suonare a Motown, dopo qualche bianco, ma prima solo i neri. Esatto, e per me è un'espressione musicale che dici, cioè non è un genere, è un genere, però è proprio la loro musica cioè degli anni 60, si sente la pulsazione della musica africana, si sente questo groove che nessuno è riuscito a decifrare prima, lo sapevano suonare solo loro perché c'era un'istintività paurosa, è vero. E al tempo stesso era pop, sì. cioè, ed era una cosa, musiche, canzoni semplicissime, ritornelli facili, ma sotto c'era una complessità, secondo me ritmica soprattutto, che era unica, insomma, un'altra pietra miliare che mi ha stravolto, quindi Motown. Motown Sound, cosa dici Gilles del Motown Sound? Beh, tu ami particolarmente il Motown. Sai? Sì, diciamo che è un genere che a me non dispiace sicuramente. Non trasmettevi all'epoca con, sì, con Agostini. Sai che io ho una grande preferenza per quello, sottolineavo Gabriele, ho una grandissima preferenza per la musica italiana. Comunque sì, con Agostino abbiamo trasmesso tantissimo di questo genere musicale. Sì. Bani, tocca a te. Ah, io vorrei spaziare nei generi. Vai, spazza come quindi, vuoi. Devi spazzare. Come disco italiano. Spazzare proprio. sì. Come disco italiano io mi porterei come cantautore, secondo me, il migliore è Paolo Conte. Abbiamo citato e mi porterei... Ah, infatti... No, io ho il disco però, preciso. Lui è andato nel quarto. Io preciso mi porterei 900. 900, perfetto. Okay. Grande disco 900. Bellissimo, sì. bellissimo. Poi a me di Paolo Conte piace la coerenza, nel senso che lui scrive i testi così come scrive le musiche, così come le suona, così come le arrangia. E poi non so se hai mai visto i quadri che fa Paolo Conte. Lui dipinge come suona, quindi è coerente in tutto. Mi piace moltissimo questa cosa. Poi devo portare per forza un album di jazz. E quindi quale? Io sceglierei. Molto indeciso, quindi se posso scelgo un autore, poi vedo quando è ora di partire. Mi porterei un disco di Mingus. Ah, Charles Mingus. E poi come terzo disco andrei invece nella musica classica. Bene. E porterei, credo, una bella registrazione di Bach. Johann Sebastian. Ti dico una cosa, anche se non è vero, ma può essere anche vero. Io Bach l'ho scoperto, sì. Ma l'ho scoperto meglio grazie ai Nice e ai concerti brandeburghesi da quel geniaccio di Keith Emerson che inventò con i Nice i concerti, riprese i concerti brandeburghesi e lì li distrusse a sua maniera e inventò il concerto Brandeburg dei Nice. Quindi Nice era un gruppo prog degli anni 60-70. Quindi grande, io a Sebastian Bach. Qualcuno ha detto che Mozart era il divo rock dell'epoca, ma anche Bach ci andava vicino. Sì, Bach era più rigoroso. Era più rigoroso, Mozart, però quanta gente ha strapolato Bach. White Shadow Pale, per esempio, è stato estrapolato da un anche Bourré di Jethro Tull, anche quella veniva da Bach, e tante altre cose fatte benissimo, ma sempre da Bach veniva. Ne ha influenzati parecchi, Johann Sebastian. Io a Sebastian. Tocca a te, caro Alessandro, ben disposto. Eccomi, tranquillo. Hai basta sistemato voltarti. Le cose adesso? Sì, ci sono. Ero caduto un paio di volte. Caduto tre volte. Non importa. Vuol dire che è vivo. Dunque, allora io parto da un gruppo contemporaneo e si fa un po' di retorica, però non posso non citare i Radiohead, che secondo me sono il gruppo più... Quanti volte l'hai visti dal vivo? 3 o 4. Pensavo in moda. Io lo sapevo, avevo visto la tua espressione che l'hai visti due. E cosa ne pensi degli Amos Odigliisti di Tom York? Cosa? Scusa, ho un problema alla ritorno, cosa, no? Alla cosa ne pensi, ripeto la domanda, cosa ne pensi degli album solisti di Tom? Ah, scusa, non avevo capito. Non importa, certo. Si sente che... Sperimentali, soprattutto. Sì, no, si sente che la radice dei Radiohead sicuramente è lui. Io preferisco i Radiohead, cioè nel senso che sono bellissimi lavori, quelli anche di Tom York da solo. E preferisco i Radiohead perché mi piace molto come pensa e suona il chitarrista. E quindi un gruppo straordinario, secondo me. Sì, in Rainbow è l'album che secondo me va sul podio, nel gradino più alto, che mi pare un disco del 2008. Sì, esattamente. E poi cosa posso citare? Vabbè, ne ho ancora due. Ne ho ancora due. E poi tutto il tempo, perché sei l'ultimo. Sono l'ultimo. No, ma ero concentrato su altro. E cioè? Posso citare... David Sylvian. Quale? Si chiama Sleepwalker. Ah, ma l'hai preso dal computer? Non mi ricordavo il titolo. Te lo porti in un'isola deserta e legge il titolo. Devi sapere a memoria, come minimo. Praticamente David Sylvian. Se no, non portarti niente. David Sylvian, sì. Io amo particolarmente Brilliant Trees di David Sylvian. Mi piace particolarmente. Ecco, a proposito di David Sylvian, scusate ragazzi, quel pezzo che abbiamo sentito prima, ecco cosa poteva accollegarsi a David Sylvian, alle sue cose da solista, non con il Japan, alle sue cose minimali da solista. Quello sì, secondo infatti me. Mi piace come lavora sul suono, quindi probabilmente anche abbastanza vicino ai Radiohead come gusto personale, cioè quello che mi piace lo vedo in entrambi. È un grandissimo artista. E poi che ne so, metto un altro artista, mi piace anche lui, Peter Gabriel, per dire. Quale? Di Peter Gabriel? Ne dico uno, ma con non troppa importanza. 4. Ovo, ad esempio. Noi i primi 4. Mi piace perché è un pignolo, cioè mi piacciono le cose comunque lavorate, pensate. Ma era il pignolo anche quei Genesis. Sì, infatti, è vero, per quello è andato via. Però vedi che io... è arrivato Phil Collins, purtroppo. Dimmi, scusa. Sono partito con Peter Gabriel e dopo tornare ai Genesis da trentenne è più difficile che viverlo magari o quando hai 20 anni, come magari abbiamo vissuto sono altri. Sono d'accordo con te. Però Peter Gabriel, il post Peter Gabriel con Phil Collins sono stati 2 o 3 album, a mio parere, buoni, discreti, ma poi sono caduti. Abba Cab è uno dei più brutti album mai no, ma infatti incisi, ci sono me. Però un album da 20 milioni di copie, quello è il problema è solo quello, il problema no, è un piccolo problema. Però come qualità sicuramente non è fra i primi, a mio parere, però un disco di grandissimo successo. Si sono messi a posto per il resto dei loro giorni con quello, cose che capitano. Abbiamo finito. 23:18 e 56 secondi. Abbiamo già fatto tutti. Sì, se no Alessandro porta l'impianto e noi portiamo i CD. Cosa facciamo adesso? Stendiamo un pezzo da disco? Cosa dici? Adesso c'è un sì, la traccia numero 6, il difetto. Ah, il difetto. Gabriele, diciamo due parole veloci su questo brano. Dopo Verso casa, appunto, il difetto è la trasformazione, dove lui prende appunto la consapevolezza e si racconta, e racconta anche agli ascoltatori quello che capita, ovvero va verso se stesso. Fisicamente va verso una cantina, e andare nella cantina, quindi scavare dentro, scavarsi dentro, è un po' come in qualche modo riordinare un po' il passato, e quindi va a cercare se stesso nella sua vita precedente, che è quello appunto di pittore. Ecco, e questo è il difetto. Ricordiamo che stiamo procedendo con ordine, no Maurizio? Essendo sì, un con concept... ordine, ordine cronologico, come è nato il CD, come sono nate le canzoni, e così noi ve le trasmettiamo stasera. Respirano il buio di mani sfogliate dai guanti, vernice che non ho più usato, adesso mi cerca il passato. E non è facile dire chi sono, è più facile dire chi sono diventato, il barista che ho interpretato nel mio personaggio sbagliato. Avevo un amore, l'ho perso, cercavo la vita in un volto, pittore con poco successo alla ricerca del quadro perfetto. Il mestiere dell'ispirazione è un mestiere se c'è la ragione. Se ti chiedono cosa sai fare, la risposta è soltanto copiare. Ora scendo, risalgo le scale, ora apro le mani, la porta. Ora scendo, risalgo le scale, ora scendo, divento memoria. Dopo tanti ritratti perfetti, ordinati senza difetti, su commissione dei volti ho deciso di ucciderli tutti. Non cercavo la morte del nome, ho chiamato la morte finzione. Ho dipinto su tutti i ritratti gli occhi chiusi, sui quadri già fatti hai trovato lo stile perfetto, perché dentro il ritratto c'è tutto. C'è la vita insieme al difetto, ma il difetto è lo stile perfetto. Si riempiva la bocca di frasi, ti conobbi in mezzo ai miei quadri, in un corridoio di sguardi alla gola, i nostri corpi ci seguirono tra le lenzuola. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Poco più di 30 minuti ancora in compagnia di Blu Radio Veneto con Gabriele Graziani, Vanni Crociani, Alessandro Fabbri, Michele Barbagli. Giusto? Che formano gli EQ e qui questa sera con noi per continuare la presentazione di questo concept Un altro me. Sentiamo, parliamo di questo pezzo, mentre il pezzo andava parlavamo, discutevamo, E Michele, chitarrista nonché bassista stasera, diceva: tu sei molto gabrielliano, cioè molto Peter Gabriel, caro Vanni, in questo suono. Che io ho detto, sono tastiere. Non sono tastiere, che cosa sono effettivamente? No, sono fiati, c'è un flauto, due clarinetti, un clarinetto basso, un sassofono. È concepito un po' nello stile minimalista, alla, non so se si dice così, ma Steve Reich. Sì, pare. Eh? Sì, giustamente. Sì. Che è un minimalista tedesco. È un minimalista tedesco, quello che ha scritto il primo brano. Anche Philip Glass, sì. Allora. Potremmo usare quella famiglia là. In pratica consiste in piccole celluline ripetute da tanti strumenti che ovviamente vanno a creare questa, tra virgolette, confusione. Mm-hmm. E basta cambiare una cellulina ogni tanto a uno degli strumenti che questa confusione si evolve. Loro parlavano di melodie, di timbri. Comunque dopo un po', quando ci entri, insomma, da questo effetto di loop, come diceva, sì, esatto, Michele. Questo pezzo ricordava Philip Glass. E perché ricordava Philip Glass? Adesso mi è venuto in mente. Ti ricordi quel famoso film, non so la pronuncia, forse è sbagliata, con Ioannis Cazzi, una cosa simile. E con Ioannis Cazzi la colonna sonora era di Philip Glass e aveva queste immagini continue di un'autostrada che si muoveva, in macchine che si muovevano, col sottofondo musicale che ha fatto lui, che ebbe un grande successo all'epoca. E il fenomeno Philip Glass uscì proprio da quel film là. E questa musica, che è assolutamente cinematografica, secondo me, questa proprio cinematografica al midollo, parte, come tu hai detto, dal minimalismo tedesco, Steve Reich, ora Irich, sì, non l'ho mai imparato. E Philip Glass, che non è tedesco, però, certo, assolutamente, però si introduce in quella storia. Dal punto di vista dell'arrangiamento c'è una cosa divertente in questo brano, e il merito è di Alessandro. Che la parte ritmica che si sente sotto è un tergicristallo. Ah, se vuoi spiegare te. Alessandro, un tergicristallo hai citato. Sì, è nato un po' per caso, nel senso che ero in macchina, il tergicristallo ovviamente stava andando, era ghiacciato, mi piaceva quello che stavo tamburellando nel volante, unito al tergicristallo che si muoveva, l'ho registrato e l'ho messo sul brano. Doveva essere un provino, poi mi ci sono messo un anno dopo con microfoni a condensatore messi dentro, fuori dalla macchina, aspettavo che gelasse, è stato un disastro perché l'anno dopo non ghiacciava mai. Insomma, alla fine, bellissimo, ce l'ho fatta a registrarla stereo, però ho tenuto il provino fatto con un telefonino scassato, fatto un anno prima, ed è diventata la parte ritmica di questo brano. Molto molto bello sto discorso, molto interessante. Gabriel, dobbiamo citare un personaggio che prima non abbiamo citato. Assolutamente. Per ultimo, ma non ultimo, è Francesco Gazzè, che collabora con noi da tanto tempo ormai, dal 2005, da quando abbiamo fatto, dal dopo Sanremo, 2005, sì, insomma, comunque con noi ha collaborato nel 2008 con Liquido e quest'anno con un altro me, quest'anno, insomma, sono anni che stiamo scrivendo. Che è l'uomo pensante dietro a Max. Sì, sì, sì, praticamente ha scritto tutti i testi di suo fratello e gran parte della musica, quindi insomma. Quindi, personaggio di grande valore, bellissimo. Sì. Dunque, sono le 23:28. Cosa abbiamo in scaletta, caro Gile, adesso? Beh, in scaletta, che la stavo leggendo, c'è il ritrattista. Ah, che bello il ritrattista. Questo, dobbiamo fermarci un secondo. Perché? Per forza. Perché il ritrattista è il pezzo che noi, che io ed Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, che salutiamo, che vi ha voluto fortissimamente qua, e ha fatto bene. Grazie. E abbiamo scelto come disco da proporre, perché è un pezzo, secondo me, meraviglioso. Anche il testo, una melodia accattivante, ma non accattivante scemata, è una accattivante che prende immediatamente, ben costruito. Tutto perfetto, tutti i puntini sulle i a posto. Non è una canzone, è un tema che è diverso dalla canzone. Non so se viene fatta da disco o dal vivo, cosa fate? Disco, va bene. Dal disco, disco. Dal disco, la sentiamo adesso. Dal disco. Gabriele, io penso che, permettimi Maurizio, vai. C'è la passione un po' che ho per i testi. Sono ottimi testi. Se fermi la vita, l'amore non muore. A parte, due parole sono meravigliose, ma io penso che sei tu che scrivi i testi poi alla fin fine del... Io penso, sì, che per scrivere un concept così bisogna proprio sapere entrare anche in questo personaggio, in questo barista. Sì, chiaramente c'è qualcosa di autobiografico per forza di cose. Il personaggio bisogna entrarci dentro e quindi è più facile se c'è un vissuto, insomma. Il ritrattista barra barista in qualche modo sta dall'altra parte, guarda le persone e riesce a vivere attraverso lo sguardo e attraverso la distanza. Infatti il ritornello del ritrattista dice sostanzialmente questo: quello che vedi è un ritrattista. E vivo l'amore comunque attraverso una specie di distanza, quindi tengo le persone lontane a misura di braccio, citando De André. E comunque, no, mi sono perso un attimo. Semplicemente quando poi entra, e questa è la canzone dove effettivamente il ritrattista ha un incontro con un'altra persona, deve fare una specie di scelta, quindi deve o entra dentro l'amore, quindi o entra dentro il quadro, oppure resta a guardare il quadro, e quindi non c'è una via di mezzo, e quindi deve fare una scelta. Qualche volta anche non scegliere è una scelta, questo è il paradosso, e quindi probabilmente lui prolungherà questa scelta dentro l'album. Però questo pezzo qui è un pezzo dove effettivamente e affettivamente, per quanto mi riguarda, c'è una specie di dovere, e quindi verso se stesso e verso quest'altra persona, e quindi è vero, avete scelto il pezzo probabilmente più giusto. Allora ascoltiamoci il ritrattista degli EQ. La tua bocca in mezzo alle gambe, seni tremanti sotto il mio ventre, cambiavo il piacere controcorrente, mentre ti amavo non ero presente. Poi ti sollevi in punta di piedi, con i tuoi passi, i tuoi segreti, senza respiro dopo l'amore, mi hai chiesto il quadro del tuo dolore. Da quella volta ci siamo amati, fuori dal letto due sconosciuti, sempre più soli, sempre più spesso, tu con l'amore, io con me stesso. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza, punto di vista di un ritrattista è la distanza. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza, punto di vista di un ritrattista è la distanza. Vi lascia i vestiti, solo nel quadro siamo felici, nudo di donna, nudo alla gola, ti voglio sempre, ti voglio ancora. L'amore passa un attimo prima di quando sai che un po' s'avvicina, sempre più solo senza me stesso, io diventavo lei sempre più spesso. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza, punto di vista di un ritrattista è la distanza. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza, punto di vista è la distanza. E così sono qui vestito da te, spogliato dal nudo, e mi chiedo l'amore cos'è. Cercare l'assenza, pensarsi a distanza, oppure pure guardarsi negli occhi, toccarsi. Resisti, resisti, resisti, che tanto l'amore non dura. Io lo volevo fermare prima, capire il colore, capire perché. Se fermi la vita, l'amore non muore. Rimane, rimane. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, il ritrattista compone il suo quadro, diventa un artista, però io volevo uscire un attimo perché alla fin fine anche voi siete degli artisti e create il vostro quadro, che è la vostra musica, la vostra canzone. Ma cosa significa per voi fare musica? Alessandro, tocca a te. Bella domanda esistenziale. E una necessità, un piacere, e un'esigenza, nel senso che lo continuiamo a fare per fortuna con grande piacere. Ed è una cosa che per prima cosa ci lega, come diceva Vanni, prima del gruppo c'è il gruppo di persone a cui piace condividere i momenti che passano assieme, noi ci divertiamo e quindi la musica comunque è un lavoro, è tutto. Adesso comunque è un momento sicuramente non redditizio in certo, da tutti i punti di vista sulla musica, e quindi diventa sicuramente, se non c'è quella voglia comunque di continuare a prescindere, non lo si farebbe più, e quindi e poi è un divertimento capire, cioè ogni periodo cambi, quindi anche artisticamente, per dire, quello che sei in questo quello che abbiamo registrato in questo disco probabilmente è già alle nostre spalle, nel senso che comunque ogni anche sei mesi, ogni anno sviluppi dei pensieri che vengono da quello che vivi, che vengono da quello che ascolti e da quello che hai smesso di suonare, e quindi la cosa divertente comunque è cercare le cose che ti fanno star bene, che ti interessano, che ti danno la voglia di ricercare appunto la parte bella di questo lavoro, di questo hobby. Bene, Maurizio, torniamo sulla notte. Il ritrattista, che è un pezzo, ripeto, bellissimo, è un pezzo magico, non so per quello, ma mi ha attirato al 100% e continua ad attirarmi più che lo sento ogni volta che lo sento, perché proprio ha una certa magia, e la musica e le parole chiaramente sono magiche nel senso più positivo del termine, accoglienti, ti prendono, ed è importante secondo me fare un pezzo che prende immediatamente, è fondamentale a mio parere per un musicista. Adesso sono le 23:38, potremmo parlare di una cosa fondamentale: come si svolgono i vostri live dal vivo, i vostri concerti, al di là della rappresentata teatrale che abbiamo citato precedentemente, musicalmente che impulso date? Sono elettrici, assolutamente elettrici, Michele, oppure? Sì, rispetto per esempio al disco sono più elettrici, ovviamente l'impatto live ha certe caratteristiche che in un disco puoi non dare. Noi abbiamo scelto nel disco di avere diverse sonorità, curare i suoni in una certa maniera che poi dal vivo non puoi fare. Certo. Abbiamo giocato col pianoforte. Che piano usa Vania dal vivo? Dal vivo utilizza per necessità un piano elettrico, quando c'è in alcuni teatri il piano a coda. Però appunto in studio l'abbiamo preparato, come si suol dire. Sì. Cioè un piano preparato dove, non so, inserivamo delle biglie tra le corde, stoppavamo delle altre corde, suonavamo con dei microfoni particolari attaccati nella tavola armonica, facendoli passare attraverso dei processori di effettistica per chitarra, insomma cose che poi dal vivo non puoi fare, e essendo anche noi solo in quattro, di cui uno canta e basta, gli altri tre suonano, con tre strumenti puoi capire che, certo, assume un'altra, dimensione. Un'altra dimensione. Vanni suona spesso anche i bassi dal vivo, perché con la mano sinistra ha un sintetizzatore, e io suono la chitarra. Quando non fa i bassi lui, li faccio io col basso vero, e lui ha altre parti di synth solista. E Gabri in che posizione si pone rispetto a voi? Perché il suono della band, cioè praticamente il solista, dà il contorno, il suono è un contorno. Gabri in che posizione si muove? Si mette davanti o assieme a voi? Che sembra una cosa semplice, però è importante, secondo me, è fondamentale. Funziona se è insieme a noi, quindi sì, è questo che ovviamente cerchiamo. Noi cerchiamo di dare dal vivo, dal punto di vista musicale, quella sensazione di gruppo unito. Adesso mi viene per esempio in mente, forse non cambio discorso perché il concetto è sempre quello, per esempio una cosa che io non sopporto e faccio fatica veramente ad ascoltare sono, per esempio, parlando, entrando nel jazz, quei jazzisti famosi che hanno già fama, quel trombettista piuttosto che un altro, che per fare non so, il concerto, per portarsi a casa un concertino, incontra gli altri del gruppo alle 8 di sera e alle 9 suonano. Ecco, lì si sente che non è gruppo. Ho capito. Si sente che non c'è interazione. Invece l'interazione, al di là del punto, esiste sia musicalmente, ma anche proprio come coesione anche di suoni. E quindi noi questo cerchiamo di fare. Ho capito. Benissimo. Volevo proprio sapere questa cosa qua. Ok, adesso cosa c'è in scaletta, caro Gino? Adesso facciamo un live. Facciamo un live. Che cosa allora? Eccetera, eccetera. Parliamo un momento. Tu eccetera, hai citato, eccetera. Gabri, il discorso di Bergonzoni. Come l'hai conosciuto e perché hai partecipato, eccetera, eccetera? Beh, Alessandro Bergonzoni l'abbiamo conosciuto nei suoi spettacoli. Gioca con le parole, con il senso delle parole. È un prima citavo Panella, diciamo che Bergonzoni è molto vicino a questo, e quindi arriva al senso attraverso un altro punto di vista del senso, e questa è una cosa interessante, e anche dentro questa canzone qui che andremo a fare c'è questo aspetto, ovvero due eccetera hanno senso se sono insieme, e se separati non hanno nessun valore. Quindi dentro la canzone si rincorrono, diciamo che questa è una canzone che esce una specie di asterisco dentro l'album, appunto sono due personaggi, in questo caso due eccetera, che si ricercano tra le pagine di un libro, se si ritrovano hanno senso, altrimenti restano appese tra le lettere. Eccetera, si separò da eccetera, devo averti sognata al principio di un rigo, ho provato a sfogliare, c'erano tante parole, ma di te neanche un grido, forse solo l'odore tra le file di inchiostro. Io cercavo col dito il tuo viso nascosto dentro il senso di un libro. Fu così che mi chiesi se eri già stata letta, sui puntini sospesi anche l'occhio si invecchia. Restai senza parole quando volarono su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega a me? Doveri quando io ti amavo, quando l'amore è una senza nessuno. Doveri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno. trovo sul foglio cominciare la frase, un grammatico sbaglio di espressioni confuse. Come fronda contraria, io radice nell'aria, tu sei mare che oscilla dentro un'altra bottiglia. Resto senza parole ora che volano su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega a me? Doveri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza nessuno. Doveri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno. Ma parliamo di doveri, dove sei ora tu? Parliamo di doveri da quando lei non c'è più. Separò da eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Blu Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:46 minuti ancora con diretta con Gilles e Maurizio a Blu Radio Veneto in compagnia degli EQ. Sì, questo è un pezzo, come abbiamo detto, scritto con Bergonzoni, ha partecipato Bergonzoni, però dobbiamo dire una cosa, musicalmente è un pezzo che parte leggero, lento. Poi Alessandro, che è di fianco, comincia a ruotare, ruotare, ruotare, dare un impulso notevolissimo, poi alla fine è una specie di piccola jam session. E poi lentamente le cose si sistemano. L'hai fatto così live, Alessandro. Non mi sopporti più, No, ti sopporto botte, perché il suono del piatto a me interessa. Mi stai facendo dei complimenti, poi alla fine me ne dici una bruttissima. No, è bello così. No. Il suono del piatto, scherzo. Particolarmente del piatto. Pesti il piatto, distruggi il discorso musicale e poi lo ricomponi, si ricompone nel finale. È un gioco di timbri. È un gioco di timbri. Mi diverto, esatto, a lavorare sulle timbriche, quindi ho dei piatti che mi costruisco. Adesso qui c'è poco spazio, però ho delle spirali che generalmente scendono dalle soffitto. Americane. Poi lavoro su un po' di diversi materiali. Ad esempio, sull'album ho fatto spese folli comprando lastre di titanio. Oppure, questo non lo sapevo. Oppure, in questo caso è una prova su dell'ottone. E mi diverto un po' a sperimentare, mi diverto come un bambino praticamente. L'ultimo mio acquisto è stato il cofano posteriore di una panda dotato di tergicristallo funzionante e quindi mi diverto a metterlo in vedere lo cosa usi, sì, assolutamente, lo microfono lo... ma l'ho usata anche sul palco questa roba. E sul palco arriverà. Lo sto studiando, un'idea, sì. Anche questo. No, va bene il cofano, mi dà un po' di curiosità il tergicristallo. È il portellone posteriore, il tergicristallo semicrofonato con microfoni particolari sul vetro, può risultare molto interessante. Cioè, tanti anni fa, non c'entra niente, però mi è venuto in mente questo, tanti anni fa John Cage giocava con le radio, sai, la sperimentazione. Tu potresti giocare con quei tergicristalli, può essere, sì, sono gli intona rumori del 2013, esatto, esattamente, siamo nel 13, le ha fatte un po' di tempo prima. Musicalmente questo, caro poi Gabi, è umile perché va su un'utilitaria, quindi non voglio dire. No, dico sì. Poi è umile perché va su un'utilitaria, certo, sì, certo, poteva essere anche questo, aveva una melodia abbastanza melodico come pezzo. Una melodia, poi chiaramente la melodia è stata stravolta dal battere di Alessandro, dall'organo di Vanni, eccetera. Però era melodioso, nel senso buono del termine, c'è una, sì, melodia. Assolutamente. Sì. Una melodia che scava nell'interiore, eccetera, eccetera. Va e soprattutto si entra dentro e c'è una specie di ricerca, e quindi la melodia segue, come dentro tutto l'album, sì, la parola. Sì. Certamente. Sì, lo so che mi faccio come giocare a sciare, caro G, lo so. Infatti mi fa sempre strano vederti così, vedi, in piedi, è insolito, l'essere in piedi provoca queste cose, l'essere in piedi. È la prima volta in 15 anni che sono in piedi. Ci sono bello, un sacco di prime volte che abbiamo fatto alzare. Ma no, è bello, è positivo, vuol dire, perché si sente meglio lo strumento a essere, certo, in piedi. Ma no, non lo cambia comunque, è sempre vivo, ragazzi, sì, sempre Maurizio. 23:50, adesso avremo Goccia, mi pare. Goccia è una cosa molto importante, c'è un videoclip molto bello. Avete vinto un premio, mi pare, con Goccia. Che premio hai? Il nostro regista Macchini, tutto lui. Ha vinto un premio per un concorso organizzato da Ravenna Creativa, che è un... Ravenna è candidata come capitale europea della cultura nel 2019. Esatto, c'è stato questo concorso di arti visive e non. Abbiamo presentato il videoclip di Goccia, che è un progetto, uno stop motion. Quindi è un videoclip. Cos'è uno stop motion, per chi non lo sa? Infatti, te lo spiego: è una sequenza di, in questo caso, 3000 fotografie fatte a macro, prese in questo caso da sotto un tavolo di vetro, quindi alla storia di questa pallina d'acqua che segue un po' il testo, appunto, di Gabriele. È la storia di questa pallina che si muove, quindi ogni fotografia, centimetro dopo centimetro, lo spostamento di queste palline messe in sequenza continua creano questo gioco visivo. Benissimo, cosa dici, Giro? Sì, allora possiamo andare, vi do un jingle e... No, sentiamo da disco questo qua. Sì, scusa, dal disco. Sì, dopo ne parliamo musicalmente, adesso lo sentiamo e poi facciamo le nostre considerazioni e poi faremo la cavalcata finale verso le 24, che ci siamo quasi, non proprio, ma quasi. Goccia tuo nome, goccia dalle scale, goccia sul tetto, goccia sul mare, goccia alla bocca di sangue rosa, goccia per terra, goccia alla sposa, goccia sui fianchi, goccia sul seno, goccia alla tempia, goccia nel vuoto, goccia sul secchio, goccia sul petto, goccia che cade, rompe il silenzio. Goccia rimbalza, goccia sull'acqua, goccia nel vento, sposta la goccia, goccia nel bordo dei nostri ombrelli, goccia sugli occhi e sui capelli, goccia prigione dentro una doccia, goccia che muore, goccia vapore dentro la bocca, goccia bevuta, non ha più sete, goccia perduta. Tra le sue cosce diventa voglia, ritorna goccia senza memoria, goccia di latte cerca la bocca di un'altra vita, di un'altra goccia, non c'è una goccia uguale all'altra, goccia di ghiaccio, goccia bugiarda, goccia non cade, scivola lenta, sa dove andare, senza esperienza. Sembra sudore, non è caduta, non fa rumore, e dalla fronte la goccia pensa, meglio cadere che far condensa, fuori non piove, non goccia più, guardo il soffitto, non ci sei più. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. anche questo chiaramente è un pezzo, possiamo dire, abbastanza sperimentale. Posso dire, non so, posso allargare leggermente fuori, ma fuori nel bene del contesto musicale dell'album, a mio parere. Siete d'accordo oppure? Sì, sì. Leggermente fuori. Si distacca, sempre bello. Sì, si distacca dalle musicalità degli altri pezzi. Sì, ma anche a livello di testo, sì, penso di essere abbastanza sicuro nel cosa questa dici, affermazione. Gatti? Sì, sì, è una, lo stile, in questo caso qui è un elenco, e quindi non abbiamo ascoltato l'inventario, però diciamo che il secondo e il penultimo pezzo in qualche modo giocano a specchio, sì, quindi giocano appunto sul... in questo caso c'è la goccia che prima cade dalle scale, dalla bocca, che sembra pioggia, sì. Il nostro protagonista vede tante gocce che cadono intorno, alla fine diventa goccia. Questa è una cosa interessante per quanto mi riguarda, ovvero rientra dentro una specie di giro, ritorna da dove aveva cominciato. Musicalmente è un pezzo abbastanza breve. Come l'avete costruito? Gabi ci ha parlato del testo. Chi ha musiche le hai scritte te solamente o c'è stata una cosa collettiva in questo pezzo? Guarda, la musica che ho fatto io qui è veramente praticamente nulla, senso che dei momenti, dei tocchi. Goccia il tuo nome, goccia dalle scale, piano e voce viene una roba così, il tuo quindi nome, non c'entra proprio niente con quello che è il discorso finale. Forse è il brano del disco dove più abbiamo utilizzato lo studio di registrazione come strumento. Ah, ho capito. È quello più costruito, ma giustamente, nel senso che lo studio effettivamente non crediamo non ci sia niente di male nell'utilizzare lo studio con tutte le sue potenzialità. Possiamo ricordare che studio era? Che posto? Sì, sì, è quella famosa casa di campagna, con il supporto ovviamente importantissimo che ci ha dato Marco Canepa. Esatto. Che ha collaborato con gente di grande calibro, e anche gli Echo sono gente di grande calibro. Ok, abbiamo quasi finito, caro Gile. Sì, abbiamo quasi finito. Ricordiamo la possibilità, anche parlavamo prima dei concerti, di dare delle date. Sì, esattamente. Prossimi concerti, ragazzi, dove possono sentirvi in live? Il 22 giugno siamo a Cesena, il 25 giugno siamo a Ravenna, Ravenna Festival. E queste le prossime date. Il 6 luglio siamo a Santa Margherita, in Liguria, per il premio Bindi. Importantissimo. Tutti Bindi. Appuntamenti importanti. Per quanto riguarda invece dei riferimenti web, esattamente. Alessandro, perché Alessandro? Vabbè, dunque, non vuole Alessandro, no, non vuole. Ci tiene tantissimo. Quindi abbiamo Facebook, siamo discretamente telematici. Abbiamo Facebook che si trova gli Ecu con articolo.it. E abbiamo il canale YouTube che lo stai dicendo? Cosa dico? No, no, Facebook. Gli Ecu Facebook. E abbiamo il canale YouTube che è Ecu Official Channel. Ti vuole bene, Gabriele? Sì, sì, ma guarda, poi litighiamo a tornare indietro. Abbiamo 4 ore. Torniamo domattina, guarda, ce ne diciamo di tutti i colori a tornare indietro. Basta. Poi? Basta. Devo fare di più? Basta. No, dobbiamo dire dove possiamo. Se uno vuole comprare il vostro disco, come deve iTunes fare? Sicuramente, o scriverci in Facebook, glielo mandiamo. Se no, lasciamo il numero di cellulare di Alessandro. Che numero è 3 9 53 77 55. Sarebbe un problema, okay. Ma non è. Okay. Okay. No, dicevi, si Michele. Si trova anche nel sito della Self, che è la nostra distribuzione. Distribuito dalla Self, quindi una grossa distribuzione. Senti Gabriele, siamo un po' all'epilogo. Io volevo rubarti proprio queste parole, la parte finale, che è la canzone di chiusura. Ad un tratto dice: per uscire dal sogno con un falso pretesto mi dipinsi di bianco per sparire del tutto. Cos'è? Genio. La cosa bella di questa canzone è che il primo testo che ho scritto, da questo testo poi è partito tutto l'album. Non è un caso che l'abbiamo messo poi alla fine, ovvero si comincia, per quanto mi riguarda, dal bianco e si finisce dentro il bianco. Il bianco non è un non colore, è il colore che rappresenta tutti i colori, quindi dentro il bianco ci si copre e dentro il bianco si vive. E il nostro protagonista sceglie un finale, in realtà fa scegliere al pubblico, e quindi si dipinge di bianco in maniera simbolica probabilmente per dare un'occasione a se stesso per rivivere di nuovo, e quindi è una specie di purificazione. Bene, allora, prima di far ascoltare l'ultimo brano in studio, noi ringraziamo Gabriele Graziani. Grazie a voi, davvero, è stato bellissimo. Vanni Crociani. Grazie. Alessandro Fabbri. Ciao a tutti e grazie mille. E Michele Barbagli. Grazie. E grazie Maurizio. Grazie a te, Gil, della collaborazione Prisco. Importantissima, basilare. Grazie, siamo tutti basilari. Siamo tutti basilari. E l'appuntamento di domani sera? Domani è festa. Domani è giovedì, festa di Sant'Antonio, quindi riposo. Bravissimo. Buona festa a tutti. Anzi, è già Sant'Antonio adesso, sono 0,54 secondi. Ripartiamo lunedì con Terry Lee Hay, musicista americano. Un'intervista fatta con Stefano, con te o con Agostino in regia, vedremo. E si riparte facendo della buona musica, almeno speriamo. E ricordiamo che è l'appuntamento di mercoledì, questa volta sì. Eh sì, mercoledì avremo Pietruso Montalbetti al telefono, il leader dei Dick Dick, che parlerà di Battisti. A proposito di Battisti, Gabi è uscito un momento per prepararsi per cantare, parlerà del Battisti amico, non del Battisti star. Io e Lucio parlerà della vita di amico assieme a Battisti negli anni a Milano. E poi ci sarà una band che adesso non ricordo più, non importa, ho dimenticato assolutamente. Guardate il nostro sito e scoprirete tutto quanto. Buonanotte e grazie. Da Blu Radio Veneto un abbraccio a tutti. Ciao. Sono stato matita, consumavo parole, perché poi con le dita cancellavo l'amore. Sono stato l'artista senza punto di vista, come luce che vuole colorare il colore. Perché il bianco del quadro è già stato deciso da una tela neutrale che la mente non vuole colorare di bianco, perché è come copiare, però è l'unica cosa che l'artista può fare. Ho dipinto me stesso, cancellandomi spesso. Ho cambiato mestiere, ho cambiato anche il nome. Questo mi serve per capire il presente, nel rifugio mentale di chi ferma il colore. Ad un tratto anche il tratto si dimentico tutto, per uscire dal gesto, per uscire dal gusto, per uscire dal sogno. Con un falso pretesto mi dipinsi di bianco per sparire del tuo.